In quel tempo Gesù si recò in una città chiamata Nain e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova, e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: «Non piangeri». Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Ragazzo, dico a te, alzati». Il morto si mise seduto e cominciò a parlare, ed egli lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: «Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo». Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea, in tutta la regione circostante. Quante disgrazie, quante sofferenze, quanti dolori, quanta pena, quanta sofferenza nel mondo. Ognuno di noi viene a contatto con tante sofferenze proprie, dei propri vicini, dei propri parenti, della gente che ci circonda, di tante sofferenze anche che sperimentiamo sulla nostra carne, sulla nostra pelle, e veramente alle volte si è un po' esasperati, diciamola tutta. Sono tante le cose che vanno storte, tante disgrazie, tante catastrofi. Guardiamo adesso il terremoto, guardiamo le malattie, guardiamo i lutti. Guardiamo i fallimenti, guardiamo la disoccupazione che imperversa e che veramente scoraggia. Insomma, tante cose vanno storte. E allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo metterci a piangere, dobbiamo disperarci, dobbiamo nutrire ancora di più il nostro pessimismo? No. Ecco, oggi il Signore ci vuole dire una parola veramente importante. Gesù ci vuole invitare ad avere grande compassione, come lui aveva per questa donna che aveva perso questo ragazzo. Grande compassione. E che cosa fa questa grande compassione? Non ci lascia inerti, ci fa lavorare. Gesù usa questa grande compassione in un modo veramente esemplare. Dice a questa donna: non piangere, non piangere. Noi siamo chiamati ad avere grande compassione per tutti coloro che soffrono e a dire loro apertamente: non piangere. Perché? Perché non puoi piangere. Perché? Perché c'è qualcosa di ancora più importante per te, perché la morte è stata sconfitta. Dobbiamo dirla ad alta voce, dobbiamo veramente gridarlo. Dobbiamo esserne convinti, dobbiamo gioire della nostra fede. La nostra fede ci dice che la morte non ha più potere, la morte è stata sconfitta, la morte non ha l'ultima parola, la morte è distrutta, è finita. E inizia una nuova era, l'era della vita. Noi siamo per la vita e dobbiamo manifestarlo con tutte le forze. Dobbiamo cercare di sviluppare questa compassione. Diceva Ralph Devereaux, il famoso francese che si dedicò ai lebbrosi: noi dobbiamo aiutare il giorno a spuntare. Dobbiamo far sì che il giorno spunti. Che cosa vuol dire questa espressione? Dobbiamo portare la vita, dobbiamo portare il sole. Dobbiamo portare la gioia, dobbiamo portare la consolazione. E come ha fatto quest'uomo francese, Ralph Devereaux? Ha fatto della la causa dei lebbrosi la propria causa. Lui non conosceva i lebbrosi, ne è venuto a conoscenza andando, seguendo Charles de Foucault, e ha fatto il giro del mondo per una trentina di volte per raccogliere fondi e cambiare la vita di tanti lebbrosi. Ha salvato tanti lebbrosi, veramente si è dedicato tutto il tempo, tutta la vita a a queste persone che erano emarginate facendo veramente qualcosa per loro. Allora oggi il Signore ci vuole portare a riflettere su l'avere compassione, e l'avere compassione comporta prenderci un impegno concreto per dimostrare al mondo che non bisogna piangere e per portare veramente gioia e vita. Buona giornata.